Benvenuti cari amici di Mi Mancano i Fondamentali. Mi presento con questo podcast, che è una cosa un po' strana sul mio blog, perché io in genere scrivo articoli giornalistici o letterari o di cultura generale, ma diciamo che ho pensato a questa cosa per chi non abbia voglia, tempo o è stanco, non ha voglia di leggere il mio articolo e lo può sentire, lo può semplicemente sentire in questo modo. E già vi avverto che il mio podcast sarà immediatamente sotto alla foto, la stringa sarà immediatamente sotto la prima foto del post dell'articolo, quindi sarà anche facile da trovare e da cliccare. Insomma, questo articolo che si intitola Quei piccoli traumi che, puntini puntini, è seguito il titolo da una mia foto con delle extension che si chiamano faux crochet, che sono delle specie di dreadlock, delle treccine, un misto un po' di tutte queste cose qui. Bi molto bionde, molto lunghe, molto impegnative, come sentirete dal mio articolo. E andiamo cominciando, non perdiamo tempo. Salve a tutti, ritorno dopo un tempo che quasi mi pare infinito a scrivere sul mio blog. Avevo addirittura perso il dominio, talmente me ne stavo occupando, pensate un po'. Vi ho raccontato dei miei ultimi 4 anni o qualcosa di meno? Sì, no? Non ho nemmeno il coraggio di tornare indietro a vedere cosa ho scritto. Comunque sia, quella nella foto qui sopra, quella che vi ho detto, sono io. Mi pare impossibile che io non vi abbia detto di quella certa cosa, ed invece sono uscita un attimo dal posto e ho trovato quella che cercavo. Eccolo. Ed era un articolo appunto che parlava del problema che avevo avuto con i miei capelli, che si chiama una rinfrescata di memoria qua. Andremo poi a vederlo e vedremo di fare un podcast anche su questo. La povera, ma comunque determinata Erika Merlo, rimasta vittima di un errore madornale da parte di una professionista dei capelli che dovrebbe saper fare il proprio lavoro. Tutti a dirmi: ma quando ti decidi a farteli crescere nuovamente? Ebbene, dopo parrucche di tutte le fogge, le mie amate preferite comunque erano e sono quelle misto, afro e dreadlock. Eccomi quasi convinta ad usare l'espediente faux crochet o cyber dread o dread che dir si voglia, pur di non mettere più mano ai miei capelli naturali, perché oltretutto il peso dei dread farebbe crescere più velocemente i capelli. Fino a oggi, quando ho preso la decisione di togliere tutto alla fine. Molto impegnativo curare questo tipo di capigliatura. Innanzitutto non si possono lavare molto spesso. Meglio se solo una volta alla settimana, e poi comunque sia, non risultano mai completamente a posto, tra virgolette. Un peso incredibile sotto la doccia quando sono bagnati, e un senso quindi quasi di claustrofobia. Poi la consapevolezza che il cuoio capelluto non sia mai completamente e giustamente nutrito, massaggiato, poiché attaccati ai capelli veri ci sono questi lunghissimi cosi e sono legati con degli elastici. Lungi da me criticare e voler spingere a non fare questo tipo di acconciatura, per carità, però secondo me è necessario essere portati ed io evidentemente non lo sono. Oggi pomeriggio con grande pazienza mia figlia si è messa di buzzo buono e ha tolto tutto. Per averli tenuti su praticamente 1 mese e mezzo, questi faux crochet, devo dire che non è che ci sia stata tutta questa crescita miracolosa. Poi a tutti gli effetti sono rovinati, sciupati, brutti, secchi in punta. Ho deciso dunque di tornare al mio antico amore tricotico, ovvero alle parrucche, alle mie bellissime wigs, che in inglese suona un po' più dolce e meno innaturale rispetto alla lingua italiana. Infatti, come si sa, nella lingua italiana parrucche sono viste un po' come un qualcosa di malato, mentre, ma solo qui è così. Negli altri paesi nel mondo le wigs e le parrucche sono viste come una cosa assolutamente naturale e piacevole e elegante e fascinoso. Un trauma tale da non permettermi più di farmi crescere i capelli con serenità? Assai probabile. Dovrei rivolgermi ad uno specialista per guarire, nemmeno per sogno, ad uno. o una specialista, mi rivolgerei per ben altro. Semplicemente quando indosso una delle mie wigs mi spunta il sorriso, spontaneamente, e questo vorrà pur dire qualcosa, no? Poi sono convinta che se continuo su questa strada è quella giusta, per ora. Dicono sempre che bisogna fare quello che dice il proprio cuore, quello che desideriamo, e se io sorrido quando metto queste parrucche sarà perché mi va bene così. Le wigs. La verità è che non riuscirò mai a far tornare i miei capelli naturali, a quella splendida lunghezza, ovvero fin quasi al sedere, si può dire, no? E guardandoli bene non hanno più quello splendore che avevano un tempo. Vero anche che gli anni passano, però. Quindi ho deciso di ritornare ai miei capelli alternativi, che oltretutto posso cambiare di colore come quando voglio, senza dover spendere l'ira di Dio, o rischiare per leggerezza ed incompetenza di farmeli rovinare nuovamente o addirittura diventare calva, come so essere successo a molte persone dopo un intervento drammatico dal parrucchiere. E questo è quanto, e spero di non sentirmi più dire da nessuno, ma maiuscolo, ma che. I capelli sono miei e finché nessuno ci mette mano, ho la certezza che se qualcosa di male accadrà loro sarà perché l'ho voluto io. Punto e basta. Credo non ne parlerò più qui sul mio blog, ma mi premeva far sapere a chi abitualmente mi legge a che punto sono e scrivere qualcosa di così importante e significativo per me al mio rientro sul blog dopo tanto tempo. Mi sono tolto il famoso sassolino dalla scarpa e va bene così. Non lo pensate anche voi? Naturalmente è ovvio che certi brutti incidenti non accadano sempre, anzi la maggior parte delle parrucchiere sono sicuramente professioniste preparate. Ahimè, io sono cascata male. Pace. Poi segue una bellissima foto che a me piace tanto, mentre suono la mia arpa celtica Margu rossa con 15 corde, con la mia appunto wig bionda, ma dreadlock. Lunghezza media, dreadlock e afro, misto afro, e proseguo. Ed eccomi con la mia wig preferita mentre suono la mia Margu, arpa celtica a 15 corde. Non vi pare che io sia mica male acconciato così? Poi mettetela come volete, sono sempre comunque piacevole, anche quando mi prende di rasarmi completamente. E allora stiamo ancora a fare tante storie? Vuoi sostenere con una piccola donazione il mio blog? È possibile tramite PayPal scansionando il codice QR. E questa cosa qui non avrei dovuto leggermela adesso, ma mi è scappato. In realtà l'articolo finiva con a fare tante storie, però ve l'ho già detto. In fondo a questo articolo troverete questo codice QR che vi scansionandolo vi porterà a PayPal e potete darmi quello che volete per sostenere il mio blog, per sostenere i miei viaggetti quando vado per scrivere determinate cose, e anche per le spese che sostengo per il blog, perché io lo chiamo blog, ma in realtà è un sito. E boh, è finito qui. Prossimo articolo, prossimo podcast. Scusatemi per questo errore madornale che ho fatto alla fine, ma non lo ripeto più. Così è anche più divertente e più spontaneo. Allora, un grossissimo applauso da Mi mancano i fondamentali e da Enrica Merlo. Applauso a voi che avete la pazienza di stare ad ascoltarmi e anche a leggermi perché ho voglia di leggermi. Allora ci vediamo al prossimo articolo. Grazie mille, ciao a tutti.